buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo rientrati noi di 451 intersezioni. Ovviamente facciamo il solito excursus all'inizio della puntata, trasmissione che è nata a ottobre del 2014, dunque quest'anno, per continuare il percorso politico e musicale di Pier Antonio Pezzinga, che ha condotto per anni su Radio Città Fujiko Intersezioni. Abbiamo costruito questa idea, questo progetto nuovo che fonde il programma di Pier Antonio Pezzinga, scomparso purtroppo un anno fa, nostro amico e compagno, con il nostro network di 451. Eravamo già in collaborazione con Pier Antonio in passato per costruire una sorta di collegamento collettivo fra le due trasmissioni, e alla fine purtroppo l'abbiamo dovuto fare dopo la sua scomparsa. 451 Intersezioni dunque unisce questi due progetti. Ricordo anche il nostro blog No Blog, dove troverete le puntate, le notizie rispetto al nostro programma radiofonico, che è sempre 451frammentisonori.noblogs.org, e all'interno ci sono questi due spazi, quello del lunedì sera su Radio Città Fujiko sempre dalle 20 alle 21 e il mercoledì notte da mezzanotte alle 2 di notte 451 Frammenti Sonori, che di regola è condotto dall'amico e compagno Max Macchia. E vi voglio introdurre questo percorso, diciamo, informativo per comunicare a coloro che sono amanti, forse molto pochi, del nostro programma, dei nostri programmi radiofonici, che il prossimo mercoledì 1 luglio, non questo mercoledì che arriverà ma quello ancora successivo, nello spazio appunto della mezzanotte fino alle 2 di notte di 451 Frammenti Sonori, faremo la puntata di chiusura della stagione di 451 Frammenti Sonori. Dunque saremo in studio sia Max Macchia che il sottoscritto Elisio Scarpa, che ovviamente vi augura una buona serata. E invece 451 Intersezioni continuerà ancora fino a metà luglio. Lunedì prossimo chiaramente non ci saremo, perché dedicheremo tutto l'impegno per la chiusura di 451 Frammenti Sonori del mercoledì da mezzanotte alle 2, ma stasera siamo qui in diretta anche per ricordare un grande musicista, un grandissimo compositore che amiamo fortemente e seguiamo da anni, soprattutto per quanto riguarda i suoi album, sia d'esordio che nella continuazione della sua carriera degli anni 60-70, scomparso solo 10 giorni fa, amato fortemente anche dal nostro amico e compagno Pier Antonio Pezzinga, cioè Ornette Coleman, che purtroppo ci ha lasciato 10 giorni fa, è morto. Grande compositore, grande innovatore, sperimentatore, uno dei più importanti personaggi che ha fatto nascere quello che è stato definito free jazz, che poi si è estrinsecato anche negli anni 70 con una sorta di free funk. Musicista assolutamente seminale nella storia della sperimentazione del Novecento, e stasera chiaramente faremo un tributo a Ornette Coleman, affrontando in parte chiaramente la sua carriera estremamente fulgida e ricca di produzione, di collaborazione, di sperimentazione. Affronteremo diciamo l'inizio del percorso del free jazz fino all'arrivo del free funk alla fine degli anni 70. Le produzioni sono veramente enormi, anche se poi negli anni 80-90 le produzioni si sono un po' rarefatte, hanno costruito un percorso un po' differente. Diciamo che il top della produzione musicale, della vena anche artistica e innovativa, si è svolto sicuramente nel ventennio degli anni 60, degli anni 60 e 70. Ricordiamo che Ornette Coleman era nato in Texas nel 1930, si era innamorato subito delle orchestre di rhythm and blues e si è affascinato sempre alla musica ovviamente nera, a cui era legato dalle sue radici, e poi però nel corso del tempo si è avvicinato ai Boopers, spostandosi dal Texas prima a New Orleans e poi arrivando anche a Los Angeles e costruendo un gruppo con Pee Wee Crayton. Nel corso degli anni 50 porta avanti il discorso legato chiaramente al bebop, ma sempre di più si allontana cercando nuove vie comunicative, nuovi linguaggi espressivi e musicali, arrivando poi a quel periodo tra la fine degli anni 50 e inizio degli anni 60 che è una sorta di inizio del percorso del free jazz. È un disco fondamentale, è uscito nel 1961, intitolato proprio Free Jazz, che aprirà il nostro percorso storico attributare la grande importanza di Ornette Coleman nella musica nera, e non solo, ha contaminato e ha condizionato anche le sperimentazioni sia della musica nera che della musica bianca. E Free Jazz, appunto, uscito nel 1961, le registrazioni risalgono al dicembre del 1960 a New York, proprio nel periodo in cui si sposta a fine anni 50 a New York, rimanendoci per molto tempo in questo crogiuolo di composizioni e di sperimentazioni che è stato e tuttora New York. Il disco, appunto, è diciamo composto dall'Ornette Coleman Double Quartet, e ascolteremo ovviamente una parte di Free Jazz Part 1, che è veramente un disco manifesto fondamentale per gli amanti dell'improvvisazione e del free jazz. Andiamoci dunque a sentire, iniziare il nostro percorso storico, Ornette Coleman Double Quartet Free Jazz. Buon ascolto. E siamo rientrati in diretta, purtroppo amaramente abbiamo dovuto paradossalmente sfumare un capolavoro, Free Jazz Collective Improvisation, grandissimo disco, disco manifesto sicuramente di tanta sperimentazione e del movimento Free Jazz che inizia ad avere sempre più peso nella musica sperimentale nera e non solo americana e internazionale. Disco in cui erano presenti grandissimi musicisti, oltre a Ornette Coleman al sax alto, troviamo infatti Charlie Eden al contrabbasso, Eric Dolphy al clarinetto basso, alla batteria Ed Blackwell e alla tromba Freddie Hubbard. Dunque sicuramente una formazione straordinaria, importantissima dentro questo progetto collettivo che poi si è sempre più sviluppato negli anni 60 e poi anche negli anni 70. Ornette Coleman, dunque, dicevamo, in questo periodo tra la fine degli anni 50 e inizio degli anni 60 si è spostato a New York e ha incominciato a collaborare con tanti musicisti, tra cui quelli che abbiamo appena citato, e in particolare anche il grande Eric Dolphy, che ha accompagnato gran parte anche della sua sperimentazione degli anni 60. E dopo questo disco escono fuori anche altri album tra il 1961 e il 1968, ma noi abbiamo scelto, diciamo, proprio questo disco del 1968, importantissimo nella scena del free jazz, New York Is Now. Questo è l'album del 1968, vi ricordo anche, per coloro che fossero così curiosi di ascoltare o comunque di conoscere alcuni album che sono usciti successivamente, ricordiamo Ornette on Tenor del 62, Town Hall Dicembre 1962, che è un album live del 65, Empty Foxhole del 66, e in particolare anche l'Ornette Coleman Philadelphia Woodwork Wind Quintet del 67, And Having in With Ornette Coleman, famosissimo album del 1967, e poi nel 68 New York Is Now, disco appunto anch'esso molto molto importante nel percorso musicale di Ornette Coleman, con la presenza di grandissimi musicisti, in particolare John Coltrane, ma alla batteria anche Elvin Jones, al contrabbasso Jimmy Garrison e al sax tenore Dewey Redman. Dunque anche qua nomi altisonanti, a partire dal grandissimo John Coltrane. In questo disco si sente, si comincia a sentire anche l'influsso della fine degli anni 60, dei movimenti di liberazione neri e non solo, della lotta insomma per i diritti civili, politici ed economici del popolo nero. Siamo nel periodo in cui nascono e crescono, iniziano ad avere una certa importanza anche le Black Panthers, ma tutto il movimento appunto nero, e anche questo viene ovviamente ad incidere nella musica di Ornette Coleman, che il suo free jazz si sposta sempre più in maniera ardita, sempre più legato a un linguaggio più complesso e legato a sperimentazioni sempre più ardite e possiamo dire anche sicuramente proiettate verso un futuro che è ancora assolutamente presente nella musica di Ornette Coleman. Ci andiamo ad ascoltare The Garden of Souls, una traccia appunto di questo splendido disco New York Is Now, uscito nel 68, e continuiamo il nostro percorso storico a tributare chiaramente il grande Ornette Coleman. Buon ascolto con New York Is Now. Thank you. Abbiamo mixato questo splendido lavoro tratto dall'album New York Is Now 1968 a uno capolavoro di Ornette Coleman uscito nel 1972, Science Fiction, famosissimo album, e abbiamo ascoltato questo brano assolutamente suggestivo di All My Life con la voce della grande Asha Putil. E questo album Science Fiction, che proprio porta al massimo anche la vena evocativa e lirica di Ornette Coleman, che troviamo insieme a Don Cherry al tromba, Bobby Bradford, Dewey Redman al sax tenore, Charlie Eden, come al solito, al contrabbasso, Billy Higgins alla batteria e David Anderson alla voce recitante, oltre ovviamente alla Shaputil che abbiamo già nominato. Da science fiction si emerge chiaramente anche l'aria degli anni 70 con questa voce splendida, in questa linea jazz estremamente calda e sinuosa, ma dentro anche il linguaggio free che si dipana nel corso dell'elaborazione, con una batteria frenetica, un contrabbasso che segue in maniera vorticosa la linea ritmica e anche i sax che costruiscono questa orchestra non solo ritmica ma anche melodica, accompagnando in maniera egregia, anzi oltre all'accompagnamento, la voce della Putil. E da science fiction andiamo a pescare nel 1972, stesso anno, Crisis, album anch'esso molto importante della scena e del percorso di Ornette Coleman. Anche qua troviamo Coleman chiaramente al sax alto, ma troviamo anche Don Cherry, Dewey Redman al sax tenore, Charlie Eden al contrabbasso e Denardo Coleman alla batteria. Andiamoci ad ascoltare da Crisis 1972 il brano Broken Shadows. Thank you. Album questo che abbiamo appena ascoltato, come avrete sentito dagli applausi, un album live, Crisis 1972. Da questo momento Ornette Coleman per 3 anni non produce più album fino al 1975, poi fa uscire un paio di album tra il 75 e il 76, ma già elabora, sta macinando una svolta radicale, anche se era stato già ben radicale nella musica nera e non solo, con le sue sperimentazioni legate al free jazz e all'improvvisazione radicale, ma si avvicina a qualcosa di nuovo, cerca nuovi stimoli, nuovi linguaggi e si porta verso quello che sarà poi definito free funk. Costruisce con l'etichetta Horizon il primo album, Dancing in Your Head, uscito nel 1977, con la sua nuova band che è completamente elettrica, e costruisce insomma un nuovo linguaggio che mischia il free jazz con il funk, che negli anni 70 era completamente esploso, eravamo già anche molto in avanti nel 77 rispetto alle sperimentazioni funk, ma lui riesce a elaborare questo nuovo linguaggio assolutamente nuovo e assolutamente unico e bellissimo, estremamente energico, con questa ritmicità funk mischiata e mixata con il linguaggio free jazz. Ci andiamo ad ascoltare una traccia di questa svolta del free funk, che poi successivamente a questo album l'intera band si chiamerà Prime Time e verranno elaborati ben 3 album oltre al primo, Dancing in Your Head. Le ascolteremo proprio verso questo finale di trasmissione, 2 album, Dancing in Your Head del 77 e il successivo Body Meta, per chiudere questo percorso di ricordo e di tributo a Ornette Coleman. Andiamo subito velocissimamente a ascoltare Dancing in Your Head, anche perché il tempo come al solito è tiranno. Buon ascolto. E siamo rientrati in diretta. Questo capolavoro, per me almeno personalmente, amo moltissimo questo sviluppo di Ornette Coleman, questo free funk assolutamente unico e energico, pieno di carica, pieno di funk anni 70, elaborato chiaramente col linguaggio frigezzistico, questa sorta di intersecamento assolutamente unico di Ornette Coleman, la formazione che poi si chiamerà successivamente, verrà dato il nome Prime Time, composta e cambiata completamente rispetto agli anni 60 e all'inizio degli anni 70, vede la presenza di Ornette Coleman al sax alto, di Bern Nix alla chitarra elettrica, con Charlie Ellerby alla seconda chitarra elettrica, Rudy McDaniel al basso elettrico, Shannon Jackson alla batteria e Robert Palmer al clarinetto. Album splendido questo, Dancing in Your Head, 1977, e questo percorso verrà continuato da Ornette Coleman per alcuni anni con anche il secondo album Body Meta, assolutamente anch'esso unico e particolare, assolutamente da riascoltare, anche perché estremamente innovativo, ancora molto avanzato rispetto agli anni, alla fine degli anni 70, e continua ad avere ancora una forte pregnanza linguistica musicale anche nel 2015, in questi anni. Voglio ricordarvi, dato che ormai siamo alla fine della puntata di stasera di 451 intersezioni, che mercoledì 1 luglio faremo questa puntata speciale di chiusura del percorso di questa stagione 2014-2015 di 451 frammenti sonori, e dunque saremo presenti mercoledì 1 luglio Max Macchia e il sottoscritto Elisio Scarpa per questa puntata finale della stagione di 451 frammenti sonori. 451 intersezioni lunedì prossimo non sarà in onda, proprio per la preparazione di questa puntata speciale del 1 luglio, ma ritorneremo in onda lunedì che dovrebbe essere, aspettate che faccio due calcoli, 6 luglio, lunedì 6 luglio rientreremo in trasmissione e chiuderemo probabilmente intorno a metà luglio con un'altra puntata speciale di chiusura di 451 intersezioni con il sottoscritto, e con questa volta ci siamo scambiati i ruoli, Max Macchia presente con il sottoscritto in questa puntata finale. Era importante ricordare Ornette Coleman, la scomparsa 10 giorni fa, a un'età comunque ovviamente avanzata, a 85 anni, comunque ha segnato moltissimi amanti della musica sperimentale, del free jazz e anche del free funk, perché questo periodo che stiamo ora ascoltando insieme è stato un periodo comunque importante di Coleman. Poi si sono aperti gli anni 80 e gli anni 90, che sono stati un ventennio dove Coleman ha continuato a portare avanti il discorso sperimentativo, cercando anche di collaborare con altri musicisti della scena degli anni 80 e 90, ma sicuramente dopo il free funk c'è stato un periodo sicuramente meno ricco di inventiva, meno innovativo dal punto di vista proprio musicale, ma questo era anche normale. Ogni musicista ha un periodo molto forte, molto, molto ricco di fantasia e di creatività, poi si può perdere, come si può anche riacquistare nel corso del tempo. Ci sono anche compositori che inizialmente portano avanti delle sperimentazioni, delle composizioni meno brillanti, nel corso del tempo sviluppano invece un percorso assolutamente unico, e viceversa. Coleman comunque ha portato avanti ancora live fino a 2 anni fa, dunque ha continuato a suonare, a sperimentare, ovviamente dei limiti anche oggettivi dell'età stessa dello stesso Coleman.